Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme all'Adico, ancora con noi il presidente dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi argomento particolare perché insomma si sa che gli italiani sono bravi, capaci anche, come dire, di avere delle belle iniziative. È successo a un utente che insomma si è dovuto arrangiare in qualche modo per riuscire a lavarsi, farsi una doccia calda. Perché? Di che cosa parliamo? Sì, un utente, Francesco, che è stato anche ingegnoso in una vicenda assurda che è anche ironica, di cui si è rivolto all'Adico pochi giorni fa proprio perché è rimasto quasi un mese senza gas, malgrado quella che era una pratica che lui aveva attivato regolarmente e che ormai si aspettava di potersi riscaldare, improvvisamente, senza nessun preavviso, senza nessuna spiegazione, si è trovato di entrare un giorno a casa e trovarsi praticamente al freddo. E di conseguenza, non potendo farsi una doccia e non potendo più neanche cucinare, a distanza di un mese, malgrado tutti i suoi buoni presupposti e tentativi di poter risolvere la controversia con il gestore, ancora ad oggi si trova, diciamo, al freddo. Certamente una classica vicenda di cui un'associazione come l'Adico, ma qualsiasi associazione dei consumatori, normalmente penso capiti frequentemente, perché quando si tratta di bollette penso che è un po' il cavallo di battaglia ormai dell'Adico, in virtù proprio di quelle che sono le casistiche più incredibili che ci capitano. È già successo altre volte, per esempio, di raccontare di persone che hanno cambiato gestore telefonico e magari sono restati senza telefono per mesi. In questo caso parliamo di gas, come hai detto, quindi dell'utenza gas, no? Bisogna stare molto attenti anche qui quando si va a modificare un contratto, proprio per non trovarsi in queste situazioni. Sì, nel caso del signore si tratta di una migrazione di un contattore, di una persona che era prima intestato a quella nuova che era lui, che è entrato nell'abitazione acquistata. Però certamente la cosa divertente è che il signore, per poter farsi la doccia, si è iscritto in palestra, quindi sì, sostanzialmente tornava a casa dal lavoro, andava in palestra e nell'occasione che andava in palestra, anche quando non frequentava gli attrezzi, comunque ne approfittava per farsi una doccia. Quindi certamente è un signore che ha anche saputo ingegnarsi in questo senso. Per quanto riguarda i problemi delle bollette, l'Adico ormai se ne occupa ogni giorno, a decine di casi, parliamo di cose incredibili che normalmente hanno a che fare con guagli di svariate migliaia di euro o con casi come il signore che è rimasto al freddo senza ricevere nessun preavviso. Però certamente, non avendo ottenuto riscontro alla sua pratica quelle buone, si è rivolto agli uffici legali dell'Adico, il quale non abbiamo come Adico esitato a richiedere e anche una quantificazione dei costi, dei danni e dei disagi che il socio ha dovuto sostenere, che abbiamo quantificato in 1000 euro e di cui ormai i nostri uffici qualche giorno fa hanno deciso di procedere proprio nei confronti del gestore, proprio perché questi atteggiamenti veramente bisogna fare in modo che non capitino, soprattutto in un periodo, in una stagione come quella di adesso, dove insomma riscaldarsi è una necessità primaria. Quindi è importante tener nota, se dovesse capitare una cosa del genere, di queste cose, cioè di quello che ci costa il fatto di non avere il servizio che abbiamo richiesto. Sì, io dico sempre, Francesco, che quando si tratta di bollette non bisogna mai sottovalutare il problema di quando non ci arrivano, soprattutto quando ci troviamo in certe stagioni rispetto ad altre, e in particolar modo ora d'inverno. Quando si tratta di energia elettrica bisogna ricordarci che quando non si rinnega il pagamento, normalmente il gestore, prima di mandarti un'intimazione, ti fa un depotenziamento dell'energia, della potenza che puoi utilizzare, quindi dimezza praticamente 3,3 kW in 1,5, e di solito le persone se ne accorgono perché il contatore salta per qualsiasi utilizzo, insomma, che possa essere un forno, una lavastoviglie, una lavatrice. Quindi non sostiene più il carico. Quindi questo normalmente è un monito. In quel momento là bisogna subito attivarsi, perché nei giorni successivi poi il gestore, in mancanza di una posizione di una pratica aperta, poi c'è il distacco dell'utenza, quindi praticamente ci chiude i rubinetti del gas o dell'energia. E quindi capita, come nel caso del signore, al freddo o a dover andare a mangiare fuori o mangiare cibi freddi. Quindi massima attenzione, non trascurare mai il fatto che quando non arrivano le bollette le cose vadano bene, perché poi si rischia anche di incorrere in qualche ingiunzione e rischio che ci possono mettere anche in mora e quant'altro. Mentre quando si parla di conguagli, molta attenzione, perché i gestori purtroppo possono sempre tornare indietro di 5 anni e rivedere i conteggi. Quando arrivano a certe cifre noi siamo disponibili a verificare se gli importi sono dovuti, ma soprattutto per chi non ce la fa, sapere anche che c'è la possibilità di rateizzare la bolletta. Ecco, quindi tutte cose importanti che è bene sapere, e di questo l'Adico ci informa in maniera dettagliata. Quindi ricordiamo il sito dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Carlo Garofolini è stato con noi, ci ha raccontato questa ennesima vicenda. Ringraziamo l'Adico e ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.